tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Piva, regista del documentario Santa Subito al cinema dal 9 all'11 dicembre 2019. Alessandro, ben trovato. Ben trovato, Federico. Un appuntamento fisso il nostro, ogni volta che esce qualcosa di tuo ci sentiamo. In questo caso ho letto di questa storia, mi interessava chiaramente da subito, ne parliamo e la presentiamo a chi ci ascolta. Sì, Santa Subito è la storia di una brutta vicenda di stalking avvenuta ai danni di una ragazza piena di vita, giovanissima, aveva una ventina d'anni quando è stata notata da uno sconosciuto che l'ha avvistata negli ambienti parrocchiali baresi e ha iniziato un'opera di persecuzione vera e propria, pedinamenti, appostamenti, messaggi, telefonate, aggressioni anche fisiche. Le denunce in questura non sono valse a nulla, all'epoca c'era anche il problema di come definire queste cose, si parlava di un maniaco, si parlava di molestie, violenza privata, ma non c'era ancora il sistema diciamo codificato dopo dal legislatore dello stalking, e quindi gli strumenti erano veramente pochi per aggirare un problema come questo. E quindi questa ragazza che si chiamava Santa Scorese e la sua famiglia, i suoi amici sono rimasti un po' a dover improvvisare un tentativo di arginare la furia di questo persecutore, che tra l'altro era anche evidentemente disagiato dal punto di vista psichico. Purtroppo questa storia quindi è diventata una sorta di tragedia annunciata, e dopo 3 anni di questo tormento per questa ragazza, il suo aggressore l'ha aspettata sotto casa una volta che si tornava da sola di sera e non era accompagnata da quella scorta che spesso si era costruita attorno a lei nei suoi ambienti più vicini, ha tirato fuori un coltello da cucina e l'ha coltellata a morte. Come è nato il progetto di questo film? Questa è una storia che mi ha molto colpito quando si era ascoltato il racconto proprio da parte della sorella, che nel film è una voce importantissima. La sorella di Santa, Rosa Maria, ha un po' preso il compito in famiglia di divulgare la memoria di sua sorella, un po' per mantenerla viva e presente, no? Nella vita familiare, e molto anche per fare in modo che storie come questa si ripetano il meno possibile in un paese che invece, nonostante sia arrivata una nuova legge specifica sul tema e nonostante i continui appelli, come noi sappiamo, quasi ogni 3 giorni una donna viene assassinata per mano di un uomo che spesso è proprio un suo vicino, una persona che appartiene alla sua cerchia familiare. Sono rimasto colpito perché Rosa Maria, sua sorella, quando ha raccontato in un evento pubblico di questa storia, ha parlato di 2 vittime, non solo sua sorella, ma questa ragazza, questa signora ha iniziato a parlare anche dell'assassino di sua sorella come di una vittima di un sistema che per via di tutta una serie di approssimazioni, di superficialità, non è in grado di intervenire con le autorità sanitarie, con le forze dell'ordine, con la magistratura, anche quando i segnali sono evidentissimi di un rischio importante per una persona. Ecco, ho pensato che in una società come quella che viviamo oggi, in cui la cronaca la fa da padrona e sentiamo nei servizi dei TG sempre queste frettolose ricostruzioni, no? C'è una corsa a finire il servizio per andare in onda e non bucare la notizia. Ecco, io mi sono soffermato su una notizia che non è più tale, in fondo è una storia ormai, una cosa che è avvenuta all'inizio degli anni 90, e questo io credo mi ha consentito di approfondire con molta più riflessione, più complessità, se mi consenti, un tema che però è rimasto attuale, il nostro malgrado, quello della violenza di genere. Anche perché a questo io aggiungo una terza categoria di vittime, che sono gli affetti, che vivono tutto il resto della loro vita con questo peso. Ma Federico, hai centrato forse uno dei temi fondamentali del film. Devi sapere che questo film è dedicato a chi deve sopravvivere, cito testualmente, proprio perché anch'io sono passato per una tragedia del genere, meno violenta, ma il risultato è lo stesso. ho perso un fratello in un incidente stradale circa 25 anni fa, quindi so benissimo che vuol dire vedersi uscire una persona cara di casa e non vederla più tornare a casa. Quindi io mi sono in qualche modo sintonizzato sull'umanità di questa famiglia, che ha trovato un modo molto dignitoso, devo dirti, di raccontare la perdita di questa sua congiunta. Quindi credo che questo sia uno dei motivi fondamentali perché io ho fatto questo film. In parte già lo hai accennato, lo chiederti come hai approcciato a tutta questa vicenda, soprattutto con chi ancora ne soffre le conseguenze. Io credo che è un po' un discorso che abbiamo sfiorato prima. Oggi il vero lusso di chi fa cinema in un certo modo e di chi ambisce a raccontare il presente dando allo spettatore di oggi e di domani gli strumenti per cogliere le sfumature è il tempo. Quello è il lusso, il grande lusso che abbiamo oggi, il tempo di sintonizzarci sull'ascolto dell'altro e metterlo in condizione di restituire tutta la sua umanità, tutto ciò che ha dentro. In questo caso, alla fine delle interviste, molte delle persone intervistate ci hanno detto di non aver mai raccontato in pubblico o ad altri alcuni dei sentimenti che raccontano a noi davanti alla macchina da presa. Questo forse è il mio più grande orgoglio, il fatto di aver messo le persone che hanno vissuto una tragedia come questa in condizione di restituire tutta la loro umanità e anche il ricordo di una persona quando era viva. E quindi qualcuno ha parlato di un docufilm che vira verso il thriller, proprio perché la presenza di questa ragazza, Santa Scorese, resta molto forte per tutto il film, fino a questo epilogo che nessuno avrebbe voluto e che purtroppo l'ha tolta ai suoi affetti e alla sua voglia di vivere straordinaria. Anche qui in parte già ne hai parlato, però volevo chiederti e più nello specifico quali sono gli aspetti di questa vicenda che più ti hanno impressionato? Sicuramente un aspetto importante in questa vicenda è la fede. Santa stava pensando di prendere i voti, era attratta dal mondo delle missioni, dell'aiuto al prossimo. Anche la sua famiglia è profondamente religiosa, i suoi amici, molti di loro sono sacerdoti, missionari. Persino l'assassino di Santa era una persona che aspirava a diventare prete, aveva frequentato il seminario dal quale era stato allontanato probabilmente proprio per quei segni di squilibrio che avrà dato sin dalla sua più giovane età. E quindi ho pensato che questo fil rouge della spiritualità, della religione, è una vicenda anche tinta di rosso come questa potesse essere un altro elemento di interesse di fascino. Infatti sono rimasto molto colpito proprio dall'opinione degli amici, delle persone care che aveva Santa, che adesso in qualche modo vedono con punti di vista molto diversi questa vicenda. Qualcuno parla di mano di Dio in questa vicenda, ci sono delle persone di chiesa che pensano che Santa fosse destinata al martirio, è infatti in corso una causa di beatificazione. Altri invece, anche del mondo ecclesiastico, va detto, pensano che invece qui si tratta semplicemente di uno Stato che non è stato in grado di fermare la mano dell'assassino e di una donna che non meritava una sorte così precoce, così drammatica. Ecco, io ho cercato senza troppa retorica di fornire allo spettatore gli strumenti per decidere se qui si tratta di mano di Dio o di una mano che non è intervenuta piuttosto. Puoi immaginare da laico quali sono nel mio sguardo io da che parte mi sento di essere. Una doppia curiosità, Alessandro, la scelta di questa uscita evento di 3 giorni e poi in quante sale? La scelta di uscire come evento per un film del genere non dico che è forzata, ma è sicuramente una nuova opzione che si dà al cinema italiano per avere un po' di visibilità. E credo, a giudicare, il film non è ancora uscito, ovviamente quindi si potrà decidere solo tra un po' se è stata una scelta intelligente oppure no, ma la sensazione è comunque positiva perché lo sforzo è enorme ed è molto concentrato, ma per film indipendenti, piccoli e che avrebbero una vita segnata con una distribuzione tradizionale, quello dell'uscita evento è un modo interessante di avvicinare il pubblico che d'altronde in tanti campi, se ci pensi, Federico ci ha già dimostrato che apprezza in un'epoca come la nostra quella di partecipare all'evento. Pensa ai concerti che sono annunciati 6-9 mesi prima, no? Che è stata una risposta vincente del mondo discografico alla crisi delle vendite tradizionali, diciamo così. Il cinema sta rispondendo con questa strategia delle uscite evento e il fatto che noi usciamo con circa 30 copie senza neanche aver fatto una ricerca a tappeto di spazi ci dimostra che è una strada interessante questa qui, anche perché molti esercenti, molte persone che gestiscono cinema ci dicono che con questa prima seminata, diciamo così, dopo la vita del film, perché passerà per rassegne, cineforum, eventi associativi e simili, è una strada che si imposta bene e senza assistere poi a quello stillicidio che tutti noi che facciamo il suo mestiere conosciamo, dei film che incassano poco nei primi giorni e che poi molto rapidamente svaniscono nelle sale. Santa Subito al cinema il 9, 10, 11 dicembre, un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Piva. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto Alessandro. Crepi il lupo Federico, spero a presto, perché quando ci chiami tu vuol dire che hai visto qualcosa che è stata notata. Un abbraccio forte, buon lavoro. Con Bruno Colella, regista del documentario Angeli del Sud al cinema da martedì 10 dicembre 2019. Bruno, ben trovato. Eccoci, buonasera a tutti. Ci racconti questo lavoro? Angeli del Sud, chi sono gli Angeli del Sud? Gli Angeli del Sud sono una serie di personaggi e molto noti, ma anche assolutamente sconosciuti, estremi. Personaggi estremi così come estrema la città di Napoli, sempre a metà fra inferno e paradiso. Questi personaggi sono tutti coloro che abbiamo, molti di quelli che abbiamo incontrato, Eugenio Bennato ed io, dopo una trentina d'anni di spettacoli fatti insieme, di film a cui lui ha fatto le musiche, di regie che ho fatto per i suoi spettacoli e l'ultimo spettacolo teatrale che abbiamo fatto insieme al Festival di Spoleto, Briganti e Migranti. E il nostro è un viaggio in macchina dove io e Eugenio ripercorriamo le zone dove sono avvenuti questi incontri e fatalmente ripercorriamo delle cose avvenute, degli spettacoli, riparliamo di spettacoli avvenuti, di aneddoti, ma tutto questo però parallelamente scorre insieme al linguaggio della finzione. Perché non è un documentario, ripeto, i documentari, un documentario secco così non è il mio linguaggio. E quindi ci siamo inventati una trama, è una leggerissima trama, che parte dal fatto che Mimmo Epifani, grande personaggio della musica popolare, forse uno dei più grandi mandolinisti viventi, impegnato in continue tournée all'estero, in tutto il mondo, lui ha anche però una predisposizione alla follia e anche quello che a Napoli si dice il pacco, che cos'è? Sono le tre carte e la truffa, la leggera truffa, e quindi diciamo noi partiamo da questo invito, l'ennesimo invito di Mimmo Epifani che ci convoca per un premio che io per il teatro e Bennato per la musica abbiamo avuto in un paesino assolutamente sperduto del Lazio. E quindi c'è questo viaggio verso questo posto che poi si scopre alla fine che c'è una trappola. La trappola qual è? È che praticamente Epifani voleva che noi andassimo lì per prendere delle cose sue che aveva abbandonato. È una leggerissima trama di commedia che però ci consente poi di confezionare un film, un docu-comedy che al di là del linguaggio del documentario poi è molto godibile, è molto divertente, è grottesco, ci sono dei pezzi di totale finzione, c'è Mimmo Epifani che viene arrestato dalla polizia perché lo prendono per un barbone che sta girando con il suo crawler vicino alla spazzatura, insomma ci sono una serie di linguaggi che si incrociano, ovviamente c'è tantissima musica, ci sono pezzi di concerti che abbiamo girato viaggiando insieme dietro alle quinte, c'è un po' il racconto di Bennato sulla musica popolare, dalla nuova compagnia di canto popolare, quindi Peppe Barro, Teresa Desio, Carlo D'Angiò, Tony Esposito, tutti quelli che sono stati coinvolti in questa avventura napoletana della musica e del teatro, perché nella musica napoletana è sempre presente il teatro. E come mai questa idea di filmarla, questa avventura? Io venivo dal mio film, diciamo l'ultimo film che adesso è stato passato su Rai 2 in prima assoluta, Maestà, l'intera sull'arte contemporanea. E in qualche modo ci sono delle affinità, perché diciamo in Maitali aveva un cast di attori da Rocco Papaleo a Lucia Ranieri, a Sebastiano Somma, Piera degli Esposti, La Sassi, insomma era un film di finzione, però c'erano quattro personaggi dell'arte contemporanea, quattro artisti reali, e quindi diciamo che un po' con lo stesso linguaggio, la stessa logica di Maitali, che raccontava le opere di questi artisti, però anche una serie di quadri di un'Italia vista dagli occhi appunto di questi artisti stranieri, e nello stesso modo forse su questa scia ho pensato, ma perché non fare un qualcosa di simile anche sulla musica, che è una cosa che ha sempre riguardato io nei miei spettacoli teatrali e anche nei film, ma più che altro negli spettacoli teatrali è sempre stata presente la musica in grande quantità e l'arte contemporanea, per la mia fitta collaborazione sia con Eugenio che con Achille Bonitoliva, con cui abbiamo fatto tantissime cose insieme, cominciando da Carovane Evento Arti in Trans, fatti nel 87, insomma, abbiamo fatto molte cose insieme. Quindi questi ingredienti con la logica del cortocircuito, cioè diciamo mettere insieme con grande contrasto sia qualcosa di importante, di alto, come può essere la musica popolare, la musica colta di Eugenio Bennato, ma con la farsa anche con la risata, con il grottesco, e quindi confezionare delle opere che poi di fatto possono essere molto godibili anche in una sala cinematografica. Che mosaico viene fuori con questi personaggi e la musica? Beh, guarda, vengono fuori sicuramente una componente fondamentale che ha a che fare con Napoli, che è l'equilibrismo, cioè diciamo che è tutto acrobatico, per cui questi personaggi, alcuni di grande spessore, altri molto naif, hanno qualcosa in comune, sono assolutamente speciali e quindi portano inevitabilmente a un'improvvisazione, quindi si lavora senza un copione ben preciso e che va costruito poi dopo il montaggio, però dando degli spunti e chiaramente un canovaccio, un po' come si faceva con la commedia dell'arte in qualche modo. Però gli ingredienti sono importanti, perché poi quando partono i pezzi di Eugenio, pezzi di concerti che abbiamo girato, così come parlando di Maitali nell'arte contemporanea e le opere di quattro artisti che sono poi Costabi, H.H. Lim, Torsten Kirchhoff, Bednarski, sono quattro grandi artisti internazionali, e quindi però anche loro, così come i musicisti, poi si mettono in gioco e quindi viene fuori il percorso dell'artista indipendentemente dall'opera, che è una cosa molto importante, e quindi l'idea è questa, in qualche modo avvicinare poi al privato di questi artisti gli spettatori. In quante sale? Devo dire che mi sfugge un po' la temperatura di tutto ciò, perché io sono in viaggio per l'altro film che stiamo preparando sempre con la Polonia, quindi non ho seguito bene gli ultimi, io credo che saranno in tutto al momento una trentina di sale, che per un film così non è male, usciamo in tutta Italia, insomma, e vedo che c'è molto interesse. Poi in molti casi, come per esempio a Varsavia, dopodomani saremo con Angeli del Sud e subito dopo il concerto di Eugenio che sale su con le sue musiciste, quindi diciamo che sui titoli di coda del film, mentre scorrono i titoli di coda con la musica registrata, parte la musica dal vivo e c'è un piccolo concerto di Eugenio o anche un concerto intero, ecco, come a Varsavia, ma in molti di queste sale sarà abbinato sia il concerto che il film. Angeli del Sud al cinema da martedì 10 dicembre 2019, un saluto e un ringraziamento al regista Bruno Colella. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ringrazio te Federico, buona serata a tutti. Con Rosario Neri, regista insieme a Vito Colomba del film Colomba Legend, al cinema da giovedì 5 dicembre 2019. Rosario, ben trovato. Grazie per il vostro invito, buongiorno a tutti. Raccontacelo. Sì, è tornato sul grande schermo stavolta Vito Colomba, perché 25 anni fa Vito Colomba ha realizzato un film per la televisione. Quello storico film si chiamava Quattro Caroni a Malopasso. Malopasso è una frazione di Custonaci dove anticamente, a causa delle basole, i cavalli scivolavano, i cavalli carichi e i muli di frumento eccetera eccetera venivano derubati da banditi, e quindi questo è stato l'input che Vito Colomba ha raccontato in Quattro Caroni a Malopasso. Ecco, io ho conosciuto Vito Colomba dopo 25 anni di questa sua opera, mi sono innamorato, e quando l'ho incontrato lui mi ha detto che un giorno, quando sarebbe andato in pensione, avrebbe voluto fare un altro film, però era rammaricato perché i vecchi e storici personaggi, Billy Nelson, interpretato da Salvatore Cipponeri, era morto, e anche altri. Ho detto: Vito, ma allora possiamo raccontare i figli dei vecchi personaggi storici? Dice: beh sì, infatti, abbiamo raccontato i figli dei vecchi personaggi dello storico film, quindi Billy Nelson Jr., un mangiatore di banane che grazie a questo mangiare di banane riesce ad essere più astuto nelle sue azioni da sceriffo, che poi lo vestiranno da sceriffo. E quindi Colomba Legend, diretto da me e da Vito Colomba, racconta i figli degli storici personaggi, raccontiamo i figli del temibile bandito Parker, cresciuti in un convento, però avevano il DNA del padre criminale, e quindi questi ragazzi ventenni, una volta buttati fuori dal convento, dovevano sbarcare il lunario, e quindi hanno messo a segno numerosi crimini, e quindi hanno trattato l'estorsione eccetera eccetera, solo che poi le estorsioni loro le dirottavano in questo convento gestito da quattro frati, che in pratica erano preda di questi banditi, i figli di Parker, e quindi più volte il convento è stato preso di mira da Billy Nelson, lo sceriffo nuovo, perché lì avvenivano numerosi crimini, cioè quindi era il convento sospettato che erano dei complici dei banditi. Ecco, una curiosità, visto che si parla di un western del sud, sono due aspetti che erano importanti nei film italiani, cioè i luoghi e la colonna sonora. Ci racconti di questi due aspetti? I luoghi, devo dire, non me l'aspettavo che Vito Colomba avesse veramente visto quei luoghi della Sicilia che somigliavano all'Arizona. E lui mi ha detto: Rosario, io sì, ho fatto l'operaio cavatore, quindi io guardavo oltre le cave di marmo, e quindi più volte ho sognato che quei luoghi si potevano sfruttare per un film western. E mi è andata bene la prima volta, perché per trovare quelle inquadrature giuste io ho impiegato più di un anno, mi ha detto Vito Colomba, e quindi Vito Colomba mi ha facilitato a fare i sopralluoghi, perché lui conosceva a memoria tutte quelle inquadrature dello storico film che le abbiamo riproposte in Colomba Legend. Il film si è raccontato nelle grotte mangiapane, uno scenario dove un tempo vivevano tante famiglie, veramente c'è, cioè la Sicilia è ricca di tante belle scenografie naturali, e quindi è stato facile. Poi dal punto di vista fotografico raccontiamo la luce della Sicilia, il sole, ci siamo serviti semplicemente di tutto ciò che era naturale, quindi il film è stato facile, non abbiamo perso tempo, non c'è stato bisogno di avere delle scenografie supplementari. La colonna sonora, i compositori sono stati Ciccio Piras e Rino Marchese. Si racconta quel country siciliano e poi la colonna sonora è tratta dalla sceneggiatura, cioè insieme abbiamo valutato la sceneggiatura facendola diventare colonna sonora, ecco, quei fatti che si sono raccontati in vari episodi dei criminali quando hanno ucciso un poveretto per rubargli le galline, la colonna sonora raccontava questo episodio, ecco. Devo dire che Ciccio Piras e Rino Marchese veramente raccontano un altro film con la loro colonna sonora. Sì. Cosa ti affascinava della figura di Vito? La sua semplicità. Io ho visto il film negli occhi di Vito. Mi raccontava, abbiamo condiviso insieme, lui guardava i miei occhi, io guardavo i suoi occhi e insieme abbiamo visto lo schermo, le immagini che scorrevano. Non ha mai studiato Vito cinematografia, però ha avuto l'umiltà di dire, Rosario dice, ho imparato tante cose che non conoscevo, per esempio Vito girava in qualsiasi momento della giornata, invece con Vito abbiamo condiviso che per girare una scena bisognava aspettare quell'ora giusta perché la luce si posizionava in quell'inquadratura con la giusta fotografia. E Vito adesso l'ha imparata e mi ha detto che il prossimo film, se ci sarà, ha capito qual è il metodo, come si fa, come si realizza un film. Rosario, in quante sale? Stiamo partendo dalla Sicilia, iniziamo da Trapani perché a Custonaci non c'è un cinema, non c'è il nuovo Cinema Paradiso a Custonaci e quindi ho invitato il sindaco, dico ma fai riaprire il vecchio e storico cinema, dice sì ma ci manca il soffitto, ho detto che ne so, e allora fai un cinema sotto le stelle solo per l'estate. Perché la cosa è incredibile, lo storico film di Vito Colomba, Quattro Carogne e Malopasso, cioè in tutti i bar lo vedi, lo proiettano, lo mettono sul grande schermo e quindi abbiamo pensato di iniziare dalla Sicilia, da Custonaci, da Trapani per Colomba Legend e poi Palermo, quindi la Sicilia speriamo di farla tutta a tappeto. Per poi salire in Italia, ecco. Colomba Legend al cinema da giovedì 5 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Rosario Neri. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto, Rosario. Grazie a tutti, un abbraccio. Giulia Bertoluzzi, regista del documentario Strange Fish. Giulia, ben trovata. Salve, salve a tutti. Lo raccontiamo a chi ci ascolta? È un documentario girato nel 2017 a Zarzis principalmente, che è una città nel sud della Tunisia al confine con la Libia. È la storia della comunità di pescatori e in particolare due pescatori e un terzo ex pescatore che si occupa del cimitero degli sconosciuti. Quindi in pratica questi pescatori si ritrovano in una città di confine, la Libia che ancora è in mezzo a una guerra civile e in preda alla crisi migratoria che stiamo continuando a vedere. Perché i pescatori quindi sono diventati uno degli attori importanti è proprio per la posizione in cui loro lavorano, cioè nelle acque a confine con la Libia, e trovandosi in avamposto loro sono diventati i primi testimoni di questa crisi. La storia però di Strange Fish, il cui nome è ispirata alla canzone di Billie Holiday, Strange Fruit, che denunciava quindi l'impiccagione dei neri americani prima che lo schiavismo fosse abolito, e quindi rievocando questa canzone rievoca anche questo senso di indifferenza che si è creato nel Mediterraneo, per cui di fronte a una strage ci si ritrova indifferenti perché pochi a vedere questi colpi mai. La storia però in realtà racconta di come questi pescatori, di fronte a questa tragedia, anziché diventare indifferenti, si siano organizzati e abbiano iniziato a fare proprio salvataggi in mare e anche a occuparsi, con cercando di dare dignità anche alla morte in mare. Quindi questa è la storia, una storia che sicuramente parte da una situazione tragica, ma in cui queste persone cercano di attivarsi, di fare qualcosa, spinti da un senso del dovere e di umanità. Come era nato il progetto? Il progetto è nato perché nel 2017 e negli anni prima, nella città di Zardis c'era un problema legato al cimitero degli sconosciuti, perché proprio per l'urbanismo della città non esisteva un cimitero comunale, ma solo cimiteri familiari divisi nei quartieri della città. E quando nel 2011 c'era stato un naufragio sulle coste della Libia, e a causa delle correnti d'acqua che arrivano e portano quindi i resti dei naufragi proprio nel golfo di Zardis, erano arrivati 54 corpi sulle spiagge, principalmente di siriani, e in quel momento il comune non sapeva come gestire questi corpi, perché effettivamente erano abituati a ricevere sulle coste dei corpi fin dal 2002, ma 54 corpi in una volta sola è stato davvero una grande tragedia, tutta in una volta sola. Quindi il comune ha trovato uno spazio che però era prima destinato a una discarica. Questo ovviamente, al di là delle questioni puramente igieniche, ha portato con sé un grandissimo dibattito anche sulle questioni più umane, di dignità, di seppellire quindi delle persone che oltretutto sono anonime in una discarica. Quindi già nel 2017 diverse organizzazioni, soprattutto umanitarie, stavano cercando di trovare delle soluzioni insieme al comune di Zardis, senza però trovarne. Quindi in quel momento io mi ero, in quanto giornalista, dentro un collettivo di giornalisti indipendenti, mi trovavo in Tunisia e avevo iniziato a seguire questa storia, quando però una volta sul posto mi sono resa conto che effettivamente era una storia più grande, che aveva delle conseguenze non solo sulla questione del cimitero, ma proprio sulla comunità intera, perché è una città costiera, quindi tutti avevano a che fare con la questione migratoria in un modo o nell'altro. Quindi la storia è iniziata così nel 2017, quindi ho filmato per tutto il 2017, quindi questa è stata l'inizio della storia. Che impressione ne hai ricavato? È stata un'esperienza molto forte, molto bella, anche in termini proprio di relazioni umane, perché siamo rimasti in contatto con i pescatori, con i protagonisti insomma del film. È stata un'esperienza anche utile, se posso dire, perché lavorando su questo impegno civile dei pescatori, abbiamo creato con questo documentario una testimonianza importante del loro lavoro, non solo nel salvataggio e per quello che si occupa del cimitero, ma anche proprio per l'impegno nella prevenzione delle migrazioni illegali. E questo perché i pescatori sono tutti, anche almeno i protagonisti, sono anche tutti padri, hanno una famiglia ed erano tutti ovviamente preoccupati per la partenza dei propri figli. E questo perché bisogna ricordarsi che la Tunisia, nonostante sia l'unico paese delle primavere arabe che sia comunque sopravvissuto con un inizio di democratizzazione, continua ad imperversare in una crisi economica profondissima, e quindi i giovani, non vedendo futuro, vogliono partire. Loro sono molto consapevoli di questa cosa, e quindi ovviamente, essendone estremamente preoccupati, sono adoperati dal principio per cercare di creare delle alternative, quindi soprattutto a livello di formazione, di lavoro, di dare delle possibilità di lavoro ai giovani, perché se ne vogliono andare, di andarsene almeno, per arrivare sani e salvi e non farsi una traversata della morte. Mm-hmm. E quindi utile, esperienza utile, perché appena finito il montaggio del film e quando è iniziato a uscire nei festival, quindi a settembre del 2018,